Focus Economia di Sebastiano Barisoni. 17:10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Oggi, contrariamente alle previsioni, per problemi tecnici non siamo in diretta dall'Expo, dal padiglione Emilia Romagna. Vi saremo domani, per fortuna siamo riusciti a recuperare la situazione, ma poco cambia rispetto alla cronaca della giornata economico-finanziaria, che vede ancora, come ricordavano i nostri GR24, protagonista in senso assolutamente negativo la Volkswagen. E notizia di pochi secondi fa, si è dimesso l'amministratore delegato Winterkorn, dopo lo scandalo legato alle emissioni dei veicoli diesel. Devo dire che era un po' tedesca come posizione quella di Winterkorn, il dire no, io non mi dimetto, vado avanti. Ma come fai a non dimettere quando il gruppo ha preso una mazzata del genere, più quella che rischia di prendere quando arriveranno le multe vere e proprie? Ma mi riferisco solo all'andamento del titolo in borsa, 31% di calo, oggi sta leggermente recuperando, ma poca cosa, quindi ha ridotto di un terzo il suo valore il titolo in due giorni di contrattazioni. Difficile che un amministratore delegato, per quanto rigido e pieno di sé, possa non dimettersi. E infatti pochi istanti fa, anche perché l'ha annunciato le dimissioni, anche perché la vicenda sta prendendo una piega, non dico prevalentemente, ma anche politica. È stato tirato in mezzo lo stesso governo tedesco dal giornale Die Welt, che ha scritto che il governo tedesco era a conoscenza delle pratiche scorrette di Volkswagen. Molti ci chiedono che cosa è successo. È successo, adesso non possiamo rispiegare tutta la vicenda da un punto di vista tecnico, che l'accusa, detta in maniera in soldoni, è un po' questa. Il software che usava la Volkswagen in fase di laboratorio per vedere quante erano le emissioni della macchina era un software, lo dico in maniera non tecnologica, taroccato, perché poi quando si andava, e sono andati negli Stati Uniti a verificare le stesse emissioni ma su strada e non in laboratorio, sono risultate tutte fuori dai limiti previsti dalla legge americana. E quindi da questo punto di vista l'accusa non è di dire avete sbagliato tecnicamente, un errore di calcolo. L'accusa è pesantissima e dice avete volutamente utilizzato un software truccato, io lo chiamo così anche se ha tutta un'altra definizione, per alterare volutamente i dati sulle emissioni, e poi siete stati scoperti solo quando qualcuno, un ente di ricerca, si è messo a verificare se queste emissioni in laboratorio fossero uguali a quelle effettivamente realizzatesi su strada. A Wolfsburg, che è la sede della Volkswagen, si è svolta appunto la riunione del Consiglio di Sorveglianza, che ha già dato il primo fondamentale esito, le dimissioni di Winterkorn, ed era un po' nell'aria che gli avrebbero chiesto la sua testa, quantomeno. Ma dicevo, il fronte politico vede anche un governo tedesco obbligato oggi a smentire di essere stato a conoscenza delle pratiche scorrette di Volkswagen. I modelli diesel coinvolti nell'inchiesta sono la Jetta produzione 2009-2015, la Jetta Sport Wagon, la Passat, la Golf Sport Wagon, l'Audi A3, quindi insomma una bella fetta dei marchi, dei modelli del gruppo Volkswagen per quello che riguarda gli anni appunto 2009-2015 e negli ultimi due casi 2010-2015. Di questo parleremo, è tutto da dimostrare, poi c'è tutto un balletto di cifre, le sanzioni saranno di 8 miliardi, 16 miliardi, attenzione, il problema non sono solo le sanzioni, quello è il tetto massimo se venissero multati per tutti gli 11 milioni di veicoli su cui è stato installato questo software che permetteva di truccare i dati sulle emissioni. Ma non sfugge a nessuno che la dimensione politica è dovuta anche alla figura di una cosa che assomiglia alla cioccolata, ma non è esattamente la stessa cosa, che sta facendo la Volkswagen e la tanto conclamata superiorità tedesca. L'avessimo fatta noi italiani una cosa del genere, ci avrebbero massacrato a dei livelli incredibili i soliti italiani, e invece scopriamo che c'è un atteggiamento italiano anche in Germania. Allora, di questo parleremo anche di un'altra vicenda che riguarda invece l'Italia, ossia la protesta dei medici. Il segretario della NAO Costantino Troise ha definito il decreto sbagliato e si potrebbe arrivare a uno sciopero in tutto il mondo della sanità. Qual è il decreto sbagliato? quello che ha ribadito, che ha difeso la Lorenzin sulle gli esami prescritti dai medici, tolti per fare spazio, come dice la Lorenzin, alla appropriatezza della prescrizione diagnostica. L'eccesso costa 13 miliardi di euro lo Stato, i medici dicono non è la politica che può stabilire quali esami servono o no. C'è un tema anche economico, perché appunto la Lorenzin, ricordo, come l'eccesso di esami costi 13 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale. 349 238 6666. Si legge Volkswagen, avete ragione, l'auto del popolo, fu Hitler a battezzarla così, se non ricordo male. Andiamo subito alla borsa durante le notizie in breve. Ascoltatore ha ragione, perché si fa fatica a credere che il governo non sapesse quando tra gli azionisti della Volkswagen c'è, come avviene spesso in Germania nel modello di capitalismo tedesco, c'è anche una regione, un land, che è azionista, insomma è proprio azionista, quindi siede nel consiglio di amministrazione. O hanno fatto tutto da soli i top manager, il manager americano o gli altri, oppure boh. Andiamo avanti, mezzo punto percentuale di rialzo Milano in questo momento, come Parigi, Francoforte più 0,70, un tentativo di recupero oggi, l'America meno 0,36%, in realtà a Milano vanno bene alcuni titoli, penso a Moncler più 3,60, Fiat che ieri come tutti i gruppi automobilistici aveva perso parecchio, meno 3, più 3,10 oggi, Enel più 1,80, Ferragamo pure, Atlantia più 1,60, Eni più 1,5 come Campari, l'1,40 rialzo di Finmeccanica e di STMicroelectronics, l'1% quello di Snam, Mediaset e Luxottica. Ma il fronte opposto vede il Monte dei Paschi oggi perdere tantissimo, il 6,90%, e anche di questo parleremo. Saipem meno 4%, Banco Popolare meno 2,12%, Mediobanca meno 1,1%, Unicredit meno 1%, Azimut meno 0,90%. E devo dire che ci sono anche degli elementi interessanti per quello che riguarda per esempio Moncler, c'è un accordo con il gruppo Marcolin per la produzione di occhiali e gli investitori si muovono su questo, ma vi arriveremo più avanti. Allora, Mario Draghi, oggi in audizione alla Commissione Economica e Monetaria, il Presidente della Banca Centrale Europea dice: attenzione, l'inflazione nell'area euro è vicina e resterà vicina allo zero nel breve termine, ci sarà un po' di risalita verso la fine dell'anno, il programma di quantitative easing, quindi da questo punto di vista l'acquisto di titoli di Stato continuerà e sarà ampliato anche se necessario, la nostra politica resterà accomodante. The deterioration in the growth outlook has increased obviously the downside risk. Il peggioramento dello scenario di crescita ha ovviamente aumentato i rischi al ribasso. Comunque è ancora prematuro dire se questi rischi sono permanenti o transitori. Pensiamo però che le sfide che devono affrontare ora le economie di molti paesi emergenti rimarranno ancora per qualche tempo. Alla luce di questo scenario, la ripresa sta continuando nell'area euro, sebbene con un passo leggermente più lento. Non molto più lento. Le nostre previsioni, infatti, sono state riviste solo di poco. Certamente monitoreremo attentamente tutte le informazioni rilevanti e le loro ripercussioni sulle prospettive di crescita. Inoltre, la nostra politica monetaria resterà accomodante e agiremo se necessario. La crescita continua ad essere sostenuta dai bassi prezzi del petrolio e dalla nostra politica accomodante. Certamente però, per rendere la ripresa strutturale, i paesi devono fare le riforme. Quindi la politica monetaria aiuta e ha certamente aiutato la ripresa, ma non può fare tutto da sola. Non può trasformare una ripresa ciclica in strutturale. strutturale. Per fare ciò, i paesi devono adottare riforme strutturali. By itself, it cannot transform a cyclical recovery into a structural one. To do that, countries will need to undertake the structural reforms. Draghi poi ha continuato: l'Europa è forte solo se agisce unita e solidale, non la BCE non resterà riferita alla Grecia nella Troica per sempre, comunque ha valutato positivamente l'accordo della Grecia, il paese può tornare a crescere. La buona notizia è che in Grecia tra l'altro ha giurato oggi il governo Tsipras ed è stato confermato Tsakalatos come ministro delle finanze, il ministero più importante in Grecia e non solo. Dicevo, la buona notizia di oggi riguarda Standard & Poor's, perché l'agenzia di rating che dà voti ai debiti sovrani oltre che dei privati dice l'economia italiana sta finalmente uscendo dalla recessione dopo 3 anni e mezzo di contrazione, tuttavia è probabile che la ripresa sia tiepida a causa della bassa crescita dei salari e dell'alto tasso di disoccupazione che frenano la domanda dei consumatori più che in altri paesi dell'area euro. E quindi è una buona notizia, ma con tanti ma. E a questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma di oggi è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Dopo l'aggiornamento delle previsioni sull'andamento dell'economia arrivate nei giorni scorsi, in particolare quelle del governo con la nota di aggiornamento del DEF, oggi è l'agenzia di rating Standard & Poor's a confermare che l'economia italiana, dopo quasi 4 anni di difficoltà, sta finalmente uscendo dalla recessione. I dati lo dicono in modo abbastanza chiaro: il PIL è aumentato dello 0,7% nel primo semestre del 2015 e per fine anno si dovrebbe toccare la quota dello 0,9 indicata dal governo o anche quella dell'1% stimata ad esempio dal centro studi Confindustria. Ma diciamo che al di là di queste piccole differenze, dal report di Standard & Poor's viene fuori la fotografia di un paese che sta sì uscendo dalla recessione, ma che lo sta facendo con troppa timidezza, con troppa lentezza. La ripresa italiana è ancora tiepida a causa dell'alto tasso di disoccupazione, a causa della bassa produttività e di conseguenza della bassa dinamica salariale, elementi che contribuiscono a frenare i consumi più che in altri paesi della zona euro. Ci sono segnali positivi, per esempio le esportazioni italiane, che già sono andate bene in questi anni, iniziano a funzionare ancora meglio, ma per raggiungere i livelli di una ripresa più sostenibile, più consistente, serviranno ancora molti investimenti, a partire da quelli del settore pubblico. Insomma, si vede la fine del tunnel, ma sarà lunga la strada per tornare a tassi di crescita del PIL almeno superiori all'1,5%. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Anche molti messaggi che dicono: ma non potremmo anche noi fare causa in riferimento alla Volkswagen. Attenzione, i limiti americani, quelli che la Volkswagen, la Volkswagen ha violato volutamente taroccando il software, sono limiti americani, statunitensi, che sono più rigidi di quelli, li aveva irrigiditi, se non ricordo male, Barack Obama nel 2009, però sono più rigidi di quelli europei. Ecco perché dal punto di vista europeo, detto questo, come abbiamo raccontato anche ieri, le varie autorità, comprese le autorità italiane, oggi il ministro Del Rio ha detto: abbiamo chiesto comunque una verifica molto approfondita alle autorità tedesche, alle autorità di omologazione tedesche, siamo in contatto con il governo, aspettiamo notizie e poi decideremo di conseguenza su eventuali misure, tra cui lo stop alle vendite, che voglio dire, solo nel caso che il taroccamento fosse venuto anche rispetto ai limiti posti in Europa, che ripeto sono diversi da quelli americani. Però e poi arriveremo, perché in questa vicenda c'è anche il fatto, so, marginale della componentistica. Noi siamo grandi fornitori di Volkswagen come aziende nel mondo meccanico, di Audi, di Volkswagen, di Lamborghini. Ora, non vorremmo che poi tornasse anche come danno nostro. Detto questo, il problema vero non è che chi guida una Volkswagen stia inquinando più di altre macchine. Il problema vero è che hanno mentito alle autorità americane in questo momento, in America, non scherzi su questo, e hanno mentito, hanno anche utilizzato un software che gli permettesse di mentire. Questa è la cosa ancora più grave. Allora, poi arriveremo anche altri elementi, altri settori. Vedo che Monte dei Paschi perde l'8% adesso, però sta peggiorando a vista d'occhio. Ce ne occuperemo nei mercati finanziari. Iniziamo col primo tema, che è appunto la Volkswagen. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Facciamo questa, poi parleremo anche del nostro distretto della ceramica e poi anche dello scontro violentissimo tra medici e ministro alla sanità Lorenzin sulle diagnosi che il governo vorrebbe levare. Dice, queste sono le sue giornate, non le sembra vero Barisone di poter bastonare i tedeschi? No, guardi, noi siamo un po' più eleganti dei tedeschi, abbiamo detto che non c'è nessun godimento se poi un titolo perde il 30% e sono a rischio. Altra cosa è fare una riflessione, forse servirà ai tedeschi a smetterla con questo atteggiamento di superiorità sempre comunque costante. Hai fatto una porcata, voglio dire, il primo gruppo automobilistico europeo, il primo anche al mondo con la Toyota, se la contendono di anno in anno, ha fatto una gran porcata e adesso sono tutti lì. Uno non si vuole dimettere all'italiana, il governo dice che non ha responsabilità all'italiana, ecco, forse siamo un'Europa più unita di quanto i tedeschi non pensino. Però una buona notizia per la Volkswagen c'è: come si è dimesso il numero uno Winterkorn 10 minuti fa, il programma era appena iniziato 15 minuti fa, il titolo sta schizzando più 9% in questo momento. Fatemi vedere se schizza anche negli ultimi minuti Fiat, beh sì, più 3%, poco mossa ma sempre positiva. Allora, professor Michele Constabile, docente di marketing all'Università della LUISS di Roma, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Che cosa, la prima domanda che tutti mi stanno facendo, vabbè, lei non è un esperto di emissioni nel mondo delle quattro ruote, ma abbiamo chiarito che per ora nulla conta e nulla accade sul fronte europeo, sui livelli europei che erano diversi, anche se tutti i ministri hanno chiesto spiegazioni. Lo ha fatto in maniera molto chiara e netta, oltre che il ministro Guidi oggi, anche il ministro Del Rio, dicendo abbiamo proprio fatto una domanda alle autorità tedesche, aspettiamo una risposta. Noi abbiamo chiesto una verifica molto approfondita alle autorità tedesche, agli omologatori, sono in contatto con il governo tedesco su questo punto, come sapete loro devono certificare, quindi abbiamo chiesto di sapere quali autovetture sono state potenzialmente esposte a questo inganno. Ovviamente faremo di tutto per tutelare la salute dei nostri cittadini, ricontrollando i veicoli che ci verranno segnalati, ma abbiamo fiducia che il governo tedesco farà una inchiesta approfondita. Allora, vabbè, questa la devo fare, però me la suggerisce un ascoltatore. Questa è bella, vabbè, c'è chi come la Grecia trucca i conti e c'è chi come, o meglio, c'è chi come i greci trucca i conti e c'è chi come i tedeschi trucca le emissioni. Questa proprio ce l'avevo qua, no? Visto quello che hanno fatto passare la Grecia per aver truccato i conti. Allora, Professor Costabile, la domanda che arriva da molti ascoltatori: cosa faccio? Ho appena ordinato una Volkswagen, ho appena ordinato un Audi, posso, ho comprato, posso? Denuncia una cosa, intanto non aver capito che la vicenda è americana, non sappiamo se le emissioni delle macchine Volkswagen in Europa abbiano utilizzato lo stesso giochetto del software che le fa risultare più basse in laboratorio e sono più alte poi in strada. Però ci fa capire che il danno che sta arrivando al gruppo, ai vari marchi, è un danno incredibile. Sì, guardi, questo è in dubbio. Adesso sicuramente poi ci saranno esperti sia di emissioni e di ambiente, sia di automotive in generale, che saranno in grado di rassicurare i consumatori sulle probabili inesistenti implicazioni, soprattutto in alcuni paesi e per la gran parte dei modelli del gruppo Volkswagen. Però è indubbio che l'evento in sé sia un evento di rilevanza estrema, probabilmente in questo settore mai registratosi in precedenza. E lì i danni in realtà sono probabilmente ben superiori rispetto a quello che i danni potenziali, si intende, ben superiori rispetto a quello che riusciamo a immaginare. E forse non riguardano neanche solo la prospettiva aziendale della Volkswagen e del gruppo in genere, perché come dire, c'è un primo elemento importante che circola, come dire, un po' sui siti di complottismo, ma che va rilevato. È solo di recente che la Volkswagen ha superato la Toyota come primo produttore mondiale, e qualcuno dice che la realtà della difficoltà di controllare le emissioni, ovvero diciamo del trucco che il software, certo, consentiva al momento del controllo, è una realtà nota già da molti mesi che viene fuori solo adesso. Però professore, anche questa cosa del complottismo è molto italiana, cioè a me è molto italiana, ma dire, qui sta venendo fuori un atteggiamento tedesco che è molto italiano. Allora divento proprio serio: l'amministratore delegato che non si dimette finché non lo fanno dimettere oggi nel consiglio di amministrazione, il governo che dice non ne sapevamo niente, il Land però dentro, ripeto, dentro Volkswagen l'azionariato prevede anche il Land della Bassa Sassonia, che è una delle regioni più importanti in Germania. Ora, come se la regione Lombardia fosse dentro, o la regione Piemonte dentro la Fiat, il consiglio di amministrazione della Fiat con una quota del 20%, cioè è il secondo azionista dopo Porsche, e nessuno ne sapeva niente. E la politica dice, ora pure il complottismo, ma siamo a Wolfsburg o siamo da altre parti? Che la premessa è questa: io proverò a darle delle risposte da, come dire, professore di marketing, ma certo, tenga conto che questa vicenda ha dei confini un po' fuzzy, come dicono, no? Un po' nebulosi. Vuoi per la presenza tipica del capitalismo renano, della politica, certo, una presenza forte nel mondo delle imprese, nella governance, vuoi per delle dinamiche di natura geopolitica dalle quali le grandi imprese non sono fuori. No? Le grandi imprese, come ben sappiamo e lo vediamo, e non solo le Google e le Apple, ma le Volkswagen e le Toyota, hanno dei ruoli nelle dinamiche geopolitiche che non sono secondarie a quelle degli stati. Intanto per il PIL che muovono. No, io ho capito che dice lei, ma non vogliamo fare nemmeno le vergine. Detto questo, però, no, se tu hai commesso un'irregolarità. Ieri non c'entra nulla la Popolare di Vicenza, ma uno non mi può dire, ma tanto andava avanti così da tempo, tanto lo fanno anche altre banche. No. Se tu ti sei fuori dalla legge, prima o poi ti beccano. Ora, l'unica alternativa potrebbe essere che anche Toyota o altri marchi concorrenti abbiano fatto questo trucchetto, e allora aspetterebbe a qualcuno della Volkswagen dimostrare che non erano gli unici a truccare, ma intanto il danno te lo sei fatto, cioè non si può dire, siccome truccava e non lo sappiamo perché magari gli altri non hanno spinto così tanto. Resti con noi, professore, al metro della pubblicità. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Le irregolarità nei nostri motori diesel contraddicono tutto ciò che rappresenta la Volkswagen. Attualmente non abbiamo ancora le risposte a tutte le domande, ma stiamo lavorando per scoprire cosa è accaduto esattamente e lo stiamo facendo in modo veloce e trasparente. Inoltre, continuiamo a collaborare a stretto contatto con le più importanti autorità e organizzazioni governative. Il completo e veloce chiarimento ha la massima priorità. Lo dobbiamo ai nostri clienti, ai nostri dipendenti e all'opinione pubblica. Milioni di persone hanno fiducia nei nostri marchi, nelle nostre auto e nella nostra tecnologia. Mi dispiace infinitamente di aver deluso la fiducia che riponevano in noi. Chiedo scusa in tutte le forme ai nostri clienti, alle autorità e all'opinione pubblica per questo comportamento non corretto. Faremo tutto il possibile per riparare il danno e per riguadagnare la fiducia. Nel nostro gruppo, oltre 600.000 persone lavorano per costruire le migliori macchine per i nostri clienti. Sarebbe sbagliato gettare discredito in modo generalizzato sul lavoro onesto di queste persone a causa degli errori commessi solo da alcuni. La nostra squadra semplicemente non lo merita. Ecco perché vi chiedo ancora fiducia. Andremo a fondo della questione. Vi do la mia parola che faremo tutto il possibile con la massima apertura e trasparenza. Per all dem werden wir mit der größten möglichen Offenheit und Transparenz vorgehen. Ad andare a fondo invece è stato lui, perché le parole che avete appena ascoltate le aveva pronunciate ieri l'amministratore delegato che si è dimesso mezz'ora fa della Volkswagen, Winter Korn. Ha ragione nel dire: attenzione, non danneggiate i 600.000 lavoratori che nulla c'entrano. Infatti il problema non è quello, il problema è della superiorità dei vertici tedeschi e del ruolo della politica tedesca. Comunque, Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Andrea, il tema, poi torno anche al professor Constabile, il tema delle emissioni, però è vero che quelle statunitensi sono molto più rigide, le nostre tolerano mi sembra il doppio, 2-3 volte, ma è anche vero che la Volkswagen è stata beccata a taroccarle fino a 15 volte, ma questo non vuol dire in automatico, me lo chiedono gli ascoltatori, che ha taroccato anche quelle europee? Dunque no, allora bisogna distinguere bene le due cose. È vero che i motori testati negli Stati Uniti hanno dei livelli di emissioni nella guida reale che erano, io ho guardato un grafico stamattina, addirittura superiori a quelle previste dalle norme Euro 2, cioè non avrebbero passato neanche le norme Euro 2. Il problema qual è? Tutte le auto, non solo quelle Volkswagen, sono predisposte per superare i test così come sono fatti adesso. Sono test che hanno poco a che fare con la guida reale, con le condizioni di utilizzo di tutti i giorni. Inoltre, a tutti i costruttori è permesso di adottare dei mezzi legali, quindi una sorta di elusione per far consumare meno ed emettere meno le macchine. Alcuni esempi: possono gonfiare i pneumatici a una pressione molto superiore a quella di uso normale, che fa consumare meno. Possono adottare serbatoi più leggeri. Ci sono una serie di meccanismi che sono perfettamente legali, sono scappatoie, appunto, elusioni. Questo fa sì che nei test effettuati da varie associazioni, tra cui la ICCT, che è quella che poi ha tirato fuori lo scandalo Volkswagen, si è emerso che numerosi modelli di altri produttori, che loro non nominano, abbiano dei risultati superiori a quelli della Volkswagen. Ora, alle norme così come Volkswagen. Questo vuol dire che ovviamente non sono gli unici. Il caso Volkswagen è particolarmente clamoroso per la forbizia, diciamo, per l'astuzia e per la frode, e soprattutto per il fatto che sia stato perpetrato ai danni degli americani, che notoriamente sono piuttosto esigenti su questa cosa. Però il problema è che i veicoli, e tra l'altro non necessariamente solo i diesel, anche i motori a benzina, siano progettati in alcuni sensi per passare i test, per essere efficienti solo in condizioni di test, e poi nell'utilizzo che ne facciamo noi siano meno efficienti, e non per citare un organo di stampa diverso dal nostro, Quattro Ruote ha fatto numerose inchieste sul fatto che le auto che noi compriamo consumano il 20% in più di quello che le case dichiarano, e questo vale per moltissime case costruite. Ma infatti, scusami Andrea, per non confondere troppo, allora un conto è dire che tu per motivi di marketing o per motivi di tetto cerchi la situazione migliore per stare dentro quel livello lì, per cui come quando la pubblicità dice riesci a fare 100 km con un litro, poi li riusciresti a fare solo in discesa col vento a favore, con un nano che guida e tutto quello che vuoi, va bene, però lì siamo nel limite, diciamo, del dire vabbè tiro da quello che ho capito io, l'accusa gravissima alla Volkswagen è di aver adottato un software appositamente per taroccare i dati. Cioè, non è dire metto la macchina nelle condizioni che tu non avrai mai nella vita, se non una volta per sbaglio, ma sta ancora ridendo per il nano il tecnico, ma dico, ma sono rimasto virtualmente nella legalità. Prego Andrea. Sono d'accordissimo che è un livello superiore. Bisogna tenere presente anche un'altra cosa. Nel settore poi, come hai detto forse anche tu prima, non è escluso che qualcun altro abbia adottato stratagemmi simili. Ovviamente non c'è nessuna prova, i concorrenti hanno tutti mantenuto un profilo molto basso, una grande discrezione. Ah, una grande cosa di paglia. Una grande discrezione. Il problema è che adesso giustamente le autorità europee, partendo dal caso Volkswagen, cercheranno di andare un po' più a fondo, di stringere un po' i bulloni su questi test. Bisogna dire che l'altra cosa che è indubbia e che si riferisce alla Germania è che la Germania, per l'importanza della sua industria automobilistica, per il fatto tra l'altro che Volkswagen con Audi, Porsche, Mercedes e BMW producono macchine più grosse, più pesanti e che tendenzialmente inquinano di più, hanno fatto molto spesso da frenatori una lobby fortissima, certo. Esatto. No, questo per dire che poi no, ogni paese tira per sé, c'è chi trucca i conti e c'è chi trucca i motori. Sulla base di questa analisi, però, mi dici una battuta, Andrea, ma se le emissioni loro erano 15-20 volte superiori ai limiti americani e se i limiti americani sono 2-3 volte superiori ai nostri, questo vuol dire in automatico che sono superiori ai limiti europei? Certamente. L'altra cosa che posso aggiungere è che la cosa che mi piacerebbe sapere, che non siamo ancora riusciti a sapere, è in Europa quali motori vengono venduti e se questo software è presente anche sui motori europei. La Volkswagen finora ha mantenuto un rigorosissimo riservo su questo e... che però è un riservo che preoccupa, perché se non fosse così avreste già detto no, usavamo il software solo negli Stati Uniti. Assolutamente. Immagino, no? Perché devi star zitto se sei un elemento a tuo favore, professore Constabile, l'affare si ingrossa, no? Come dice, l'affare è già molto grosso, il potenziale di danno, come le accennavo, è devastante, il potenziale si intende, per la Volkswagen innanzitutto, ma anche, come ha accennato il suo collega, per tutti gli altri grandi produttori di automobili tedeschi, che tutti insieme condividono una sorta di marchio comune che è il Made in Germany. Quindi questo danno della Volkswagen si potrebbe riverberare su tutti i singoli, sono 16 i marchi fra auto e moto, alcuni storici italiani, su tutti i 16 marchi che sono nella pancia di Volkswagen, ma potrebbe riverberarsi verso l'alto sul Made in Germany dell'automotive e di conseguenza sugli altri grandi produttori citati poc'anzi. Sì, allora io adesso ho il traffico, guarda caso, però poi vorrei capire proprio questo, perché qui non stiamo dicendo, per essere proprio onesti, precisi e non marmaldeggiare, appunto noi non siamo come fece i tedeschi con la Grecia, noi non stiamo dicendo che le auto Volkswagen o Audi avessero dei problemi di fabbricazione, fossero poco sicure, fossero fatte male, venisse venduto un elemento di sicurezza invece non era così. Questo non è assolutamente vero, restano delle macchine che tutti conosciamo, quindi però stiamo dicendo che hai mentito su una cosa che è arbitraria, cioè i limiti di emissione noi li fissiamo per legge, hai mentito su una cosa, hai mentito, questa è la grossa accusa. Lei però ci sta già dicendo, attenzione, qui il problema vero è che come ne esce il modello tedesco. Io vorrei sapere, dopo il traffico, lei cosa farebbe a questo punto. Mi chiedete quanto è l'indotto della Volkswagen in Italia, è 1,5 miliardi di componentistica. La Germania nel complesso acquista 4 miliardi di componentistica auto dall'Italia e la Volkswagen da sola acquista 1,5 miliardi. L'ha appena comunicato l'ANFIA, che è l'associazione che rappresenta la filiera dell'industria automobilistica italiana. Traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, professor Constabile, lei cosa farebbe? Perché qua il livello si sta alzando, non si sta abbassando. Cerca di uscirne domanda... anche il governo tedesco, ma ripeto, quando il land della bassa della Sassonia, dalla Bassa Sassonia, al 20% di Volkswagen, è difficile dire che la politica regionale quantomeno non sapesse nulla. La domanda è da 18 milioni di dollari, no? Il valore della multa. Da 18 miliardi forse. Da 18 miliardi di dollari, mi scusi, certo, il valore della multa di cui si parla. Allora, generalmente in teoria si lavora su più livelli, c'è cioè un livello di risposta tattica, un livello di risposta più di medio periodo e una risposta eventualmente strategica. A livello tattico sicuramente va costituita un'unità di recovery management, si chiama tecnicamente, o di crisis management, che deve gestire relazioni con gli stakeholder istituzionali, quindi con i governi e le varie autorità di controllo, e relazioni con i consumatori, perché poi è lì che si scarica, al di là del danno, mi lasci dire, emergente, che sono le varie multe, le varie sanzioni, e sul danno d'immagine che si scarica poi nel lungo periodo l'effetto negativo dell'evento. Quindi un'unità di recovery immediatamente che limiti anche eventuali class action, o che comunque consente di rassicurare i consumatori su quello che lei giustamente diceva, cioè che la qualità delle auto tedesche non è in dubbio. Il secondo intervento, più di medio periodo, riguarda una serie di processi di comunicazione e di interazione con i clienti che probabilmente i media digitali abilitano oggi più che in passato, di grande trasparenza e verificabilità delle promesse. Cioè, è indubbio che Volkswagen da oggi in poi debba cambiare radicalmente, cioè ogni promessa deve essere supportata da un'evidenza di dati non troppo tecnici. Io capito che dice lei, certo. È l'abilità. Non troppo tecnici, perché i clienti, anche non ingegneri, devono poter valutare la portata, ma ogni promessa deve essere appunto accompagnata dai dati. No, ho capito benissimo cosa dice Andrea Malani in due minuti, però insomma qui il ragionamento che sta facendo l'industria dell'auto Volkswagen è anche di un possibile calo delle vendite. Mi spiego, è ovvio, la domanda non è così scema come sembra. Uno potrebbe dire, ok, hai un danno economico pazzesco, 6 miliardi e mezzo accantonati per i danni che avrai dalle multe americane. E magari non solo americane, perché quello che tu ci hai appena detto sulle emissioni europee, auguri per la Volkswagen. Però dal punto di vista, diciamo, delle vendite, io ti potrei dire come consumatore, ok, emetteva più monossido di carbonio, Euro 2, non Euro 6, o Euro 4, quello, o Euro 10, Euro 20, però la macchina è solida, il motore va bene, cioè è più sicura di altre, cioè io potrei anche non avere personalmente intenzione di non comprarla o non comprarla dico, più. Dico tre cose rapidissime. Sì. Uno, i 18 miliardi di dollari secondo me sono impensabili. Sì, 18 sì. miliardi di dollari è il settlement che ha fatto BP con gli Stati Uniti per aver devastato il Golfo del Messico. Sì, quindi vero. Diciamo che direi qualche miliardo di dollari sicuramente, 18 non esiste. L'effetto sulle vendite, probabile ma secondo me piccolo. Pensiamo ad altri scandali, quello della Toyota, sempre negli Stati Uniti, Toyota con l'acceleratore che si bloccava, GM col blocchetto all'accensione che ha fatto più di 100 morti, grave danno d'immagine, calo le vendite, quasi niente. Oltretutto il discorso ecologico è sì importante, Volkswagen ci aveva scommesso, quindi in questo caso, certo, io sono un consumatore americano che ero pronto a scegliere un diesel perché consuma molto meno, è ecologico eccetera, mi rendo conto che era una bufala, non lo compro più, sicuramente negli Stati Uniti ci sarà. In Europa dipenderà molto da come si orienteranno i consumatori verso i motori diesel in generale, viste anche le future nuove normative. Allora Andrea, ti devo chiedere di restare con noi al GR24, poi c'è anche una dichiarazione preoccupata di Squinzi sull'indotto italiano. Grazie intanto al professor Michele Costabile, GR24. Ciao, sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Da Matt Groening, il geniale inventore dei Simpson, fino al grande artista Keith Haring, passando attraverso storie tormentate come Francesco Nuti e Sinéad O'Connor, fino a Aceto, l'uomo del palio. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24. Vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Vorrei concludere questo lungo ma dovuto approfondimento sulla vicenda Volkswagen, che ha diversissimi aspetti, non è un'unica vicenda. Mi piace molto l'ingenuità di un ascoltatore che dice: ma insomma, non ho capito, ma perché la Volkswagen ha fatto questa truffa per vendere più auto? Perché se non stavi nei limiti previsti dalla legge americana non le potevi vendere quelle auto. Andrea Malan, tu ci stavi dicendo una cosa importante, ma al di là del fatto che hai ragione, 18 miliardi sono la cifra ipotetica se venissero multate tutte le 11 milioni di vetture, ma fai bene anche a ricordare che quanto ha pagato la BP per la devastazione nel Golfo del Messico, quindi insomma diamo anche le proporzioni alle cose. E ricordavi prima del GR24 come in realtà di fronte a scandali, non dico analoghi perché per alcuni versi erano anche più gravi, ma il funzionamento dell'acceleratore o della centralina d'accensione, non si sia verificato, e i casi erano Toyota e GM se non ricordo male, non si sia verificato poi un crollo delle vendite significativo. No, che io mi ricordi nessuno in realtà di questi casi di vario tipo, anche recenti, ci sono stati particolari crolli delle vendite, ce n'è stato uno che anche ha coinvolto Fiat Chrysler per quanto riguarda delle Jeep, la posizione del serbatoio della benzina. Anche lì la Jeep, abbiamo visto come sono andate le vendite negli ultimi 2 o 3 anni, è stato un vero e proprio boom. Quindi in realtà se al problema poi viene posto rimedio e se l'azienda poi comunque dopo qualche esitazione si dimostra collaborativa, il cliente, se l'offerta è conveniente, quindi se alla fine, come dicevi tu prima, alla fine se le macchine consumano poco e se in qualche modo rispettano le norme e se l'offerta è economica, quindi il prezzo è buono, il cliente non se la lega al dito, quindi ci potrà essere un effetto immediato psicologico, magari invece di comprare un diesel compra un motore a benzina, però già questo lo fa se ha una coscienza ecologica particolarmente sviluppata, cosa che forse in California c'è, in Europa un pochettino meno. E poi c'è il tema dell'indotto, dicevo, 1,5 miliardi di euro è quanto il gruppo Volkswagen acquista in Italia di componentistica, complessivamente, ripeto, l'intera Germania ha acquistato componentistica nel nostro paese per quasi 4 miliardi dell'euro, i dati sono dell'Anfia, una preoccupazione su questa comunque, cioè sull'impatto che potrebbe avere sui fornitori italiani l'ha espressa oggi anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Diciamo che c'è un po' di preoccupazione perché è un fatto molto grave questo quanto è successo e anche perché poi proiettato sul nostro sistema industriale, noi abbiamo tanti subfornitori del gruppo Volkswagen, Audi, Lamborghini eccetera, quindi evidentemente al di là della gravità del fatto stesso, la speranza è che questo non determini scossoni troppo violenti in questa azienda, insomma. Certamente i numeri che stanno circolando sono drammatici. C'è un altro aspetto, adesso non possiamo affrontarli tutti, ma Andrea Malan non ci voglio nemmeno pensare, però giustamente scrivono alcuni ascoltatori, ma insomma qui lo scandalo è più grosso perché mi fai pagare cara un'auto che dovrebbe essere Euro 6, che in realtà se va bene diventa Euro 2, adesso quanto vale la mia auto e soprattutto cosa capiterà ai vari blocchi del traffico, perché se adesso, come dir Rio, ho detto aspettiamo notizie dalla Germania, ammettiamo che si scopra che anche per quello che riguarda le caratteristiche e le regole europee tu sei fuori, che cosa succede domani al primo blocco del traffico a Milano piuttosto che in altre città? Questo è interessante, sicuramente interessante, è un incubo, se ci pensi è un incubo, nel senso... No, le autorità dovranno verificare esattamente cosa è successo. Tra l'altro nell'intervallo del GR mi è arrivato uno studio di una casa di analisti finanziari che ha rifatto i conti, cioè è andata a calcolare, prima abbiamo detto che le auto testate negli USA superavano fino a 40 volte nella guida reale i limiti, e quindi fino a 20 volte anche i limiti europei. Però dobbiamo sempre ricondurre tutto alle prove europee, cioè a quelle che sono le fasi di test europeo. Questi analisti sono andati a vedere, in base ai dati della Virginia, quelli appunto da cui è venuto fuori lo scandalo, e li hanno riapplicati alla normativa europea. Allora, pare che queste due auto Volkswagen testate supererebbero sicuramente i test Euro 4, così come sono fatti, e forse gli Euro 5, non è chiaro l'Euro 5. Questo è importante perché se si accertasse che in base all'attuale normativa di test europea, quindi lacunosa, carente, insufficiente, comunque quelli motori, attenzione, senza il dispositivo software incriminato, quindi tarati, diciamo, non per far gare, ma tarati giusti, se riuscissero comunque a superare seppure di poco le condizioni di test Euro 5, a questo punto, scrivono questi analisti, non ci sarebbe più materia assolutamente di nessun tipo di multa in Europa, perché erano comunque rispettose. E la Volkswagen fa un po' intravedere questo nel suo comunicato di ieri, in cui dice appunto che nella maggior parte dei casi il software in questione non funzionava, non doveva essere attivato, adesso cito a memoria, per cui può darsi che sia così. Diciamo che la cosa tecnicamente è complessa, ripeto, rimane il problema dei test inadeguati, quindi non è detto che comunque queste macchine che abbiamo io e Teo, i colleghi che hanno scritto, se le abbiamo, non inquinino effettivamente molto di più nella guida reale, però dal punto di vista amministrativo, quindi blocchi del traffico, categorie eccetera, se si accerterà che superano i test Euro 5, rimangono Euro 5 e basta, quindi potranno circolare regolarmente. Sì, poi vedo altri spunti, alcuni ascoltatori, già ne parlammo ieri, dicono se uno vuole ricostruirsi la fiducia dovrebbe a questo punto sviluppare, accelerare lo sviluppo di vetture elettriche o diciamo miste, in modo da dimostrare tutto il suo impegno quanto a Volkswagen per quello che riguarda i temi ecologici. È vero, ieri abbiamo detto che probabilmente da questo scandalo la buona notizia potrebbe essere una maggiore questo è molto interessante, dico solo in un secondo, Volkswagen ha dato lei, dal punto di vista di marketing, degli annunci, un'enorme accelerazione al suo programma elettrico negli ultimi due anni, forse era anche legato al fatto che sapeva che per il diesel sarebbero arrivati i tempi più difficili. Sì, questo potrebbe essere l'unico, come diciamo anche ieri, aspetto positivo della vicenda. Grazie Andrea Malan, la borsa dopo il traffico. Focus Economia. e 18 minuti, la borsa. Allora, intanto Volkswagen ha chiuso con un più 5%, ha recuperato 3,3 miliardi di capitalizzazione dopo aver perso il 31% del valore tra lunedì e martedì. Fiat Chrysler recupera, come molti titoli del settore auto, non a sufficienza, ma il 2,85% di rialzo. Molto bene oggi Moncler, più 3,60%, e molto male soprattutto nel finale Monte dei Paschi, meno 8,60%. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, partiamo da Monte dei Paschi, poi andiamo anche su Moncler. Sì, allora, per quello che riguarda Monte dei Paschi, il titolo ha accelerato al ribasso dopo le parole del nuovo presidente Dononi, che oggi ha incontrato la stampa, ha spiegato di aver fatto visita alla BCE la scorsa settimana e proprio dalla BCE sarebbe arrivato un nuovo impulso perché Rocca Salimbeni procede con un'operazione di un'aggregazione. D'altra parte però Dononi ha anche spiegato che l'operazione sarà difficile e che quindi l'orizzonte temporale è quello del 2016. In molti scommettevano che potesse arrivare a qualcosa, fusione o operazione straordinaria già prima, e questo ha molto deluso il mercato, che proprio su queste parole ha penalizzato il titolo in forte calo oggi. Poi diciamo di Moncler, ma aggiungiamo anche il settore elettrico. Perché lo dico? Perché oggi il numero uno di EDF, che è il colosso francese dell'elettricità che controlla Edison, lui è Jean-Bernard Lévy, ha detto: Edison è per noi strategica, ma un'aggregazione con altri operatori ci permetterebbe di rafforzare la nostra posizione sul mercato. Quindi Moncler e l'energia. Allora, per quello che riguarda Moncler, ha annunciato ieri un accordo con Marcolin per la produzione e commercializzazione di occhiali col marchio Moncler, e su questa notizia il titolo oggi ha guadagnato bene, una giornata peraltro positiva per il lusso perché anche Salvatore Ferragamo ha chiuso in rialzo dell'1,52%. Per quello che riguarda il settore elettrico rimane in fermento in vista di possibili fusioni, aggregazioni, eccetera. Oggi abbiamo visto andare molto bene ad esempio Eni nel settore non elettrico, ma in quello dell'energia, che è stata premiata dalle indiscrezioni su una possibile cessione della divisione Retail Gas, che dovrebbe valere circa 3,5 miliardi di euro e che ha quindi beneficiato sul titolo. È andata bene anche Enel, che ha guadagnato l'1,47%, e anche A2A si era messa in luce perché sta trattando per acquistare alcune ex municipalizzate dell'area della Lombardia, si era messa in luce soprattutto questa mattina, poi ha ripiegato un po' nel finale, chiudendo comunque a più 0,54%. E appunto poi Eni sull'ipotesi di cessione del gas più 1,40, bene, oggi anche Ferragamo più 1,50, Esti Macroelectronics più 1,5, Atlantia più 1,40, Campari più 1,30, Luxottica più 1,1, come Snam Rete Gas. Fronte opposto, Saipem meno 4%, Banco Popolare meno 2,30, Azimut meno 1,30, Ubibank meno 1,20, come Unicredit e Mediobanca, e l'1% lo ha perso CNH. Euro a quota 1,11,70 sul dollaro, miglior titolo Trevi Finanziaria più 10,40 e poi Biofarma più 6,20%, peggior titolo oltre a Monte dei Paschi Lucisano Media Group meno 15%. Grazie Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Ultimo tema rapidamente: lo scontro in atto tra sindacato dei medici e ministro Lorenzin per il decreto del governo. Il tema sono i cosiddetti esami inutili. Sono stati tagliati perché sono inutili, poi possiamo dire che non è che sono stati tagliati, si vuole avere un'appropriatezza della prescrizione diagnostica, cioè che le persone siano indirizzate a fare le diagnosi che servono e non quelle che non servono. Lei si immagini che in Italia questo eccesso di prestazioni costa allo Stato 300 miliardi di euro l'anno, 13 miliardi. Erano effettivamente un po' troppi, 13 miliardi l'anno di costi. Di costi che sono, è una quantificazione ovviamente fatta di massima, ma che potrebbero essere nel tempo poi redistribuiti per indirizzarli laddove serve nel servizio sanitario, quindi anche per garantire un accesso tempestivo a quella diagnostica preventiva in caso di necessità. Pensiamo a tutti gli esami per il cancro o per patologie gravi e complesse. Quando lei diceva si toglie la risonanza magnetica e la TAC, andiamoci piano, non è che si toglie la risonanza magnetica o la TAC, per alcune prestazioni, pensiamo il tema dell'ortopedia, le lastre, quando uno ha male al ginocchio, al gomito, si devono fare quando è necessario e non in modo intensivo come accade purtroppo a volte. Oh, così questa mattina il ministro Lorenzin ha telefono a mattino 5, dopodiché è arrivato il segretario della NAO Costantino Troisi, la NAO è il maggior sindacato dei medici dirigenti, annunciando una mobilitazione e uno sciopero, e pochi istanti fa l'ordine dei medici ha chiarito che si va verso una manifestazione nazionale a novembre in tutta la categoria medica. Il tema, come avete capito, è quello, la Lorenzin ha aggiunto, non si tratta di fare la caccia al medico, però grazie ai flussi diagnostici elettronici siamo in grado di valutare l'eccesso di prescrizioni ottemperate nel tempo e la sanzione viene inflitta se il medico non è in grado di motivare la scelta. Sono 208 esami e interventi specialistici considerati a verifica di appropriatezza prescrittiva. Si va dalle cure odontoiatriche alle prestazioni di laboratorio, come l'esame del colesterolo, agli esami di genetica e quant'altro. Barbara Gobbi, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Barbara, ma che cosa ha fatto infuriare i medici? Perché insomma, il ragionamento della Lorenzin non è sbagliato. Vogliamo verificare che non vi siano delle prescrizioni date così in maniera troppo leggera, perché il costo delle prescrizioni eccessive, inutili, scusami, è di 13 miliardi di euro l'anno. Certo, diciamo che quello che ha fatto infuriare i medici è essenzialmente l'ingerenza, a loro dire, del Ministero sulla loro assoluta capacità di gestire l'atto medico, cioè la relazione con il paziente, la loro capacità di capire, di comprendere quando effettivamente un esame diagnostico può o meno essere appropriato. Per questo ritengo una lista preparata dal Ministero, che ancora ricordiamo dovrà comunque essere inviata alla conferenza Stato-Regioni per il vaglio, dopo quello che è avvenuto già del Consiglio Superiore di Sanità. In realtà loro stanno chiedendo che si tolgano le mani dalla loro capacità e autonomia prescrittiva e si eviti di burocratizzare ulteriormente un settore che già negli ultimi anni ha scontato una serie di carenze e di tagli che pesano anche sui medici e pesano anche sui cittadini. E non vedo in questo momento punti di caduta, nel senso di punti di convergenza. Il governo tra l'altro sta lavorando anche a norme da inserire nella legge di stabilità per aiutare i medici a difendersi dalle cause intentate dai pazienti, che per il 97% poi si rivelano false, e questo sarebbe, diciamo... Esatto, i 13 miliardi infatti a cui faceva riferimento la Ministra della Salute in effetti sono la stima dei costi della medicina difensiva, che è quella medicina, cioè che sarebbe corrisponderebbe alle prestazioni prescritte soltanto per timore di una causa, cioè io ti faccio fare un esame diagnostico, una lastra, così tu non mi puoi non mi puoi far caso un giorno perché io non ho fatto fare l'esame necessario. Esatto, la contropartita che il governo dice io ti do la possibilità di difenderti, però tu mi levi però voglio anche controllare 208 esami, interventi specialistici, dove ci deve essere una giustificazione per un eccesso di prescrizione. Esatto, in cambio il Ministero e il Governo in generale stanno promettendo di rimettere mano alle norme sulla responsabilità professionale dei medici, che avrebbero portato, appunto, avrebbero contribuito a un eccesso di medicina difensiva e avrebbero anche provocato la fuga delle assicurazioni dal sistema sanitario, il che comporta poi per i medici, diciamo, dei forti aggravi economici. I premi pagati alle polizze per assicurarsi, esatto, detto. Per chi riesca ancora ad assicurarsi, questo va detto. Allora, un settore in forte crisi. Sì, devo dire che il decreto prevede che dentro la legge di stabilità, che accanto ad ogni prestazione citata, quindi queste 208 esami, viene citata intanto la condizione di erogabilità, cioè i criteri in base ai quali il medico può prescrivere al paziente quella determinata prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La materia è molto scivolosa e delicata, perché i medici avranno anche ragione nel dire questa è un'ingerenza, sappiamo noi e diamo noi, abbiamo massima autonomia nel rapporto con il paziente se indicare un esame del colesterolo, un esame di genetica, una radiologia. Dall'altra parte è vero, e ha ragione in questo caso il governo, a dire per un eccesso di medicina difensiva, per non avere rotture di scatole legali, la tendenza è a mettere a carico del Servizio Sanitario Nazionale un insieme di esami spesso inutili, un totale stimato 13 miliardi, e li paghiamo noi poi. Per cui a me non sembrava una cattiva soluzione dare maggiori tutele ai medici e però fare un po' più di verifica sulle prestazioni, ma mi sa che torneremo a parlarne, perché appunto la notizia di poco fa è che l'Ordine dei Medici ha detto che si va verso lo sciopero a novembre, lo sciopero nazionale. Grazie anche alla collega del Sole 24 Ore Barbara Gobbi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.